Batti le mani, Nico. Come fa il cavallo? E il cane? Come farete a dimostrare? Come signor Bossa? E la gallina? Ma la leva. E la muta? Quella che dà passo alla marcia di la mia voce. Aspetta, e l'elefante? Adesso togliamo. Combiniamo, io voglio. E il pesce? Quale sei capito? Ma come fa il pesce? A un certo punto lo stufare la corsa nella spazio di intercettare. Ha fatto del pugno. Ma lì c'è. A settembre mette del al Parlamento. No, aspetta, è tutto il cinque. Ogni anno un mese. Ma non è vero? Che bravo! Ad attraverso c'è un parco là che dura un mese. Un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un mese, c'è un no, papà, io ho visto un paio delle cose, scelto ai fari, sta roba qui, ho detto, ma è no, su, belle domani, ma di scarcino. A me cosa mi ha detto algo, mi ha detto che pure fino agli elettrodomestici non so che lì no, io ti no, farò no, la scintilla speciale come la o fai una volta poi devo scusare la peggiore perché no, devi avvicinare una punta. Ma lì, devo levare i piatti? Sì, prendi anni, sono un paio di anni, 3 anni che lo prendi? La sentivo ma perché non si ha? Non c'è solo ma lì, fa la aspetta, io ormai ha preso vai.